Quindi inizia un percorso di legalità che dovrebbe portare nuovamente il bene a quello che è la finalità sociale. Italia in controluce. E ora parliamo dei nuovi modi di giocare d'azzardo. Gratta e vinci, videopoker, giochi d'azzardo online hanno dato un colpo di grazia, almeno così pare, alle lotterie, abolite quelle di Merano, Monza, Viareggio, Sanremo. Ormai resiste soltanto la Lotteria Italia, ma gli esperti lanciano un allarme. Ormai il gioco d'azzardo sta diventando una patologia collettiva. Risentiamo Maria Luisa Pezzali. Sporchi, maledetti e subito. L'attesa non premia più, neanche per le lotterie. Quelle storiche, quelle per cui si custodiva il biglietto per mesi fantasticando sui sogni da realizzare, sono state abolite. Merano, Monza, Viareggio, Sanremo, Carnevale, per lo Stato non sono più redditizie. Resiste solo la Lotteria Italia, ma arranca. Nel 2010 per la prima volta le vendite di biglietti sono scese sotto quota 10 milioni, 9 milioni e mezzo, contro i 37 e mezzo del suo anno record, il 1988. Chi mangia la mozzarella, chi mangia la pappardella, chi mangia la tagliatella, pure se grasso può. Davanti a Fantastico, con i miliardi della Lotteria Italia. Con Enrico Montesano e Anna Oxa, questa settimana Paolo Villaggio, Edoardo Bennato e i Pet Shop Boys. Le lotterie tradizionali sono state uccise dalle cosiddette lotterie istantanee, Gratta e Vinci, Win for Life, Super Enalotto. A questi va aggiunto il boom delle scommesse, dei videopoker, delle videolotteries e del poker online, che nella versione Texas Hold'em ha raggiunto un fatturato mensile di oltre 300 milioni di euro con oltre 3 milioni di conti aperti. Presto, online, il forziere più promettente, arriveranno anche la roulette e il poker cash, dove si userà subito denaro reale. Un cambiamento che segna una svolta nella società e nel costume. Il sociologo Maurizio Fiasco. È finita la funzione simbolica, la funzione di attesa, la funzione ludica del gioco legata alla lotteria, legata a un evento, legata all'elaborazione di questo evento e ai sogni conseguenti allo svolgersi dell'evento stesso. In qualche modo è un simbolo di un paese che non attende più, non costruisce più, che non ha più la pazienza di credere a un possibile cambiamento, quindi tutto è impulsivo, tutto è compulsivo e tutto si gioca in solitudine senza neanche la possibilità di commentare, di scambiarsi con gli altri delle idee, delle fantasie su un evento che può cambiare la vita. Per corteggiare la dea bendata, gli italiani nel 2010 hanno speso 61 miliardi di euro, 10 dei quali vanno nelle casse dello Stato. In abbigliamento, per capire di cosa stiamo parlando, ne hanno spesi 48, in auto 37. Per il 2011 si prevede una raccolta di 80 miliardi di euro, più 30% sul 2010, una cifra pari a due finanziarie. Quella del gioco d'azzardo ormai in Italia è una delle prime industrie del paese. La spesa pro capite per i giochi è pari a 1.200 euro all'anno, una delle più alte nel mondo. Ormai è una patologia collettiva e nel futuro colpirà sempre di più i giovanissimi, ci dice Rolando De Luca, psicoterapeuta da anni impegnato nella cura della dipendenza dal gioco. È evidente che 70 miliardi di euro da qualcuno vengono giocati, no? Quindi c'è una fetta di popolazione sempre più grande che si dedica all'azzardo. Questo è un fenomeno ormai di tipo sociale e per uscire da queste situazioni gravemente di tipo psicologico ed economico serve una lunga terapia che parta dall'azzardo e si inoltre in tutti i disastri familiari. E quindi poi bisogna mettere in campo delle forze che sono di enorme portata che nessuna società occidentale è in grado di mettere in atto. Costerebbe quello che poi lo Stato incamera con gli introiti del gioco d'azzardo. L'online entra nelle case e quindi entrando nelle case in qualche modo fa sì che anche gli adolescenti, magari usando la carta di credito del papà e della mamma, possano avvicinarsi all'azzardo. Certo il fenomeno è ancora da monitorare, ma i prossimi anni ci dicono che avverrà proprio questo. La situazione, direi, anche su questo sarà fuori controllo. È tutto anche per questa puntata, scriveteci le storie che vorreste sentire. Controluce @radio24.it. Buona giornata.